niente, grazie mille per essere qua. E inizio col dire che in Calusca e sopra l'archivio Primo Moroni c'è per un mese, vero Roberto? Sì, per un mesetto c'è ancora la Fiera del Libro Politico. È un'iniziativa che ha organizzato Calusca e con Chetto, il Centro Sociale, su appunto il libro politico dagli anni 60, fine anni 60, fino ai giorni nostri. È una mostra con riviste, libri e tutto quant'altro riferito appunto a una politica militante e quant'altro. Quindi se volete vederlo, appunto, ancora per un mese c'è tutta la possibilità per andare a vederlo, anche oggi. E niente, la serata di oggi appunto è una presentazione di questo libro appunto che vedete. Oh, grazie mille. Di questo libro che vedete nella slide dietro di me, che è essenzialmente una parte della mia tesi di dottorato, che è dedicata alla cultura in senso generale, quindi dall'arte, la musica, lo spettacolo, tutti quegli elementi che compongono appunto l'esperienza artistica di una generazione che si è svolta appunto nei centri sociali di Milano tra anni 70 e 80. E in particolare appunto questo libro si concentra sugli anni 70, e riducendo ancora non solo agli anni 70, ma a un periodo ben specifico degli anni 70, che è essenzialmente quello che va dal 75 più o meno al 76, con estremi fino al 78, diciamo, con Macondo, le esperienze appunto del 78 di Macondo, e diciamo che è questo biennio dei circoli del proletariato giovanile. E sì, esatto, e vabbè, io sono qua in realtà per farti delle domande soprattutto, e diciamo che il tuo libro mi sembra che parta, soprattutto nella prima parte appunto, circa dal 69, mi sentite? Sì. E circa dal 69, dall'Hotel Commercio, dalla strage di Piazza Fontana, per poi fermarsi, diciamo, allo snodo, giungere almeno nella prima parte allo snodo insomma della crisi energetica tra il 73 e il 74, e arrivare fino al 78 e al biennio che dicevi tu dei circoli del proletariato giovanile. E la ricerca da cui nasce questo libro è una ricerca più ampia sui centri autogestiti milanesi, che è svolto in realtà in 3 anni e che arriva fino all'84, per cui vedrete dietro anche una slide sul virus, diciamo che sì. Tu giungi con la tua ricerca al punk a Milano sostanzialmente e alla vicenda del virus. Ecco, uno degli aspetti nodali che è un po' al centro del discorso di Andrea tocca in realtà una rivista e un'esperienza che non è milanese, è quella di bolognese, molto conosciuta, di Attraverso, e attraverso la quale ti soffermi a ragionare sul concetto di desiderio, sul concetto di piacere della scrittura, che era evidentemente trasversale, ecco, per usare sempre un termine caro ad Attraverso, trasversale nel senso che adesso mi sono portata dietro un libro di critica d'arte, tu in realtà arrivi da storia dell'arte in qualche modo, un libro di critica d'arte che parla proprio nel 78 del piacere della scrittura e di una scrittura in qualche modo che sia incorporata. Tu affronti questo snodo attraverso gli scritti di Azor Rosa e gli scritti di Agnes Heller, che forse sono meno noti e sui quali magari ti puoi iniziare a soffermare. Poi ovviamente affronti anche il discorso attraverso le macchine desideranti, e insomma toccando una serie di punti che erano cari effettivamente al movimento italiano, non solo milanese ma anche bolognese. Ecco. Non so se vuoi partire parlando del piacere della scrittura o il piacere nel movimento o ma di questa scrittura in movimento. Sì, perché Attraverso comunque una rivista molto interessante per quegli anni, perché non era solo era bolognese effettivamente, torna a Radio Alice e Bifo e quant'altro, però era una rivista recepita in tutta Italia chiaramente. E però attraverso, cioè leggendo attraverso, si vede come in realtà si recepiva qualcos'altro. E ad esempio i testi della Heller sicuramente, delle Sgatteri, l'Antiedipo è un altro testo fondamentale, o anche Marcuse di L'uomo della dimensione. Però ho scelto la Heller perché secondo me, forse, vabbè, fra tutti era quella meno conosciuta, cioè è quella oggi forse meno conosciuta, forse anche a causa del suo passato, forse un po' troppo comunista, militante, la allieva di Lucas e stalinista, convinto, il suo maestro e quant'altro, e forse oggi, insomma, dagli anni Ottanta è stato un po' dimenticata. Però se tu leggi ad esempio Out, quando giusto qualche mese dopo che viene pubblicato La teoria dei bisogni di Marx dalla Feltrinelli edizione italiana, un numero intero di Out viene dedicato alla teoria dei bisogni di Agnes Heller, e scrivono tutti in quel numero, Rovatti e Vattimo e tanti altri personaggi importanti. E da lì appunto si sviluppa un nuovo modo di intendere la quotidianità, secondo me. Non va dimenticato secondo me anche che sono gli anni della crisi petrolifera, sono gli anni appunto della guerra del Kippur e quant'altro. In Italia c'è una forte crisi energetica e quindi anche le fabbriche incominciano una ristrutturazione interna e per aumentare le produzioni arrivano anche nuovi macchinari e così via, e l'operaio non è più l'operaio del 68 o del 69, quel biennio caldo, e incomincia a modificarsi. È un operaio che capisce e comprende che può ottenere anche di necessità, cioè ha bisogno anche del tempo libero, di sviluppare un nuovo tempo libero, e anche attraverso la scrittura questo tempo libero si manifesta, cioè evidentemente è proprio evidente attraverso la scrittura. Quegli anni, qua siamo alla Calusca, Primo Moroni, in quegli anni pubblicava centinaia e centinaia di libri ogni anno, e più delle volte erano libricini che sono molto interessanti, però scritti magari anche da ragazzini, appunto come quelli che facevano le riviste. Nel libro si parla molto di Viola, che era la rivista dei circoli. Sì, esatto. Viola è l'imperativo del verbo violare e quant'altro, non solo il colore. E tutti scrivevano in quegli anni, è molto interessante. E perché appunto si era capito che bisognava percepire un nuovo modo di vivere la quotidianità, e il tempo libero cominciava a giocare un ruolo innovativo all'interno della cultura italiana. E ad esempio c'è una slide con un libricino, Sarà un risotto che vi seppellirà, che è il libricino, la prima pubblicazione della casa editrice Squilibri di Dario Fiori, una casa editrice molto interessante, ha pubblicato una decina, 10-12 libri, tutti su culture alternative, eroina, circoli di proletto giovanile, omosessuali, insomma, tutte queste, e tra cui anche un libro di delle Sgattari. Pubblicano anche Bifo. Due libri di Bifo e quant'altro. E appunto quel libro molto interessante, poi magari ci ritorniamo su quel libricino lì, è molto interessante. Però la scrittura, come dicevi te, diventa un nuovo modo di accedere al tempo libero. Sì, da un lato questo è stato, se vuoi, riletto continuamente anche come un recupero delle avanguardie storiche, in qualche modo un recupero delle avanguardie storiche, se vuoi problematico, nel senso che a volte c'era una tendenza, penso in particolare magari a Caldesi quando scriveva il breve ma molto utile Avanguardia di massa, recupero che però serve quasi a incasellare quello che sta succedendo, nonostante effettivamente sembra che quello che racconti molto bene sia la nascita in qualche modo di un nuovo soggetto politico, che è il giovane. Sì. Il giovane, tu parli molto del fenomeno del giovanilismo, e il soggetto politico a cui ti riferisci è nuovo e ormai si sta distanziando dall'operaio massa o dal sindacato o dalla politica di partito, e da un lato esplora e abita la città in modo molto diverso dai soggetti politici precedenti, anche in virtù del fatto che c'è un'idea e un'attenzione particolare al tempo libero, come dicevi. La categoria di giovane anche è scivolosa, nel senso che è una categoria chiaro. Che viene data a volte quando non sembrano esserci altre lenti interpretative, no? Per una situazione, per cui si sceglie per una via che sia anagrafica in qualche modo e faciliti una categorizzazione che tutto sommato forse non è sempre necessaria. Però tu ti ci soffermi, quindi è un altro punto sul quale ti chiederei se vuoi, non lo so, dire qualcosa. Ma sì, perché comunque cioè, chi è un giovane? Cioè, un giovane, cioè, è quasi una dimensione è introspettiva, cioè non è una questione anagrafica, secondo me. Non è che un trentenne appunto non è più giovane. Chiaramente può essere giovane anche a 60 anni, se uno si sente giovane a 60 anni. Però sono proprio quelle esperienze, ad esempio quelle del ciclo di proletariato giovanile, che veramente fanno capire come è nata una nuova figura di 15-25enne, perché il range era più o meno quello, cioè che faceva delle esperienze diverse da quelle di un 15-25enne, se non vogliamo dire giovane, degli anni 50 e degli anni 60. Anche negli anni 50 chiaramente c'erano state delle esperienze di questo genere, ad esempio il libro di Moroni, Balestrini, L'onda d'oro, certo, o quello con John Martin, sempre di Moroni, La luna sotto casa, cioè descrive benissimo che effettivamente fin dagli anni del dopoguerra c'erano state queste esperienze giovanilistiche di bande, di locali per giovani. E però secondo me proprio negli anni 70, attorno, sì, quando apre, non so, Renudo con via Maroncelli, 71 se non ricordo male, a Milano, soprattutto a Milano, diciamo che si capisce che ci sono delle strutture fatte apposta per questi 15 anni, questi 15-25 anni. E il centro di Brera, ad esempio, che prima era tutto attorno a Giamaica, ad esempio, incomincia in quegli anni a completamente modificarsi. Ci sono nuovi locali anche che per giovani di abbigliamento, ci sono nuovi ristoranti che si fanno nuovi alimenti, macrobiotica, sì, l'editoria per giovani che dà indicazioni su come il giovane si deve vestire, su cosa deve mangiare, su dove trovare certi determinati elementi, delle guide alternative di Milano, di Italia, di Fallo, della collana Fallo, Angelo Quattrocchi, che proprio dicono tu sei giovane e tutti i giovani hanno questi locali qua. E il primo capitolo della mia tesi mi sono divertito, diciamo, a ricostruire a grandi linee, perché è una ricerca veramente infinita, quali erano questi posti. Sì, ne tratteggi bene gli itinerari, sì. In realtà tratteggi, c'è proprio un capitolo, forse un paragrafo, sì, insomma, tutto città, in cui racconti di una serie di locali della dieta macrobiotica, sì, se non sbaglio, sì, e parli di Malamoda e parli di una mappa della città, sì, in qualche modo che, non so come dire, è quasi un'esplorazione che la attraversa tutte e che la risignifica in qualche modo. C'è un video interessante, secondo me, magari si può vedere. Stanley? Si può, puoi proiettare il video Cangaceiros? I Cangaceiros era un circolo del proletariato giovanile di Torino, uno dei primi in Italia. E è molto interessante perché a un certo punto in questo video parla un ragazzo che secondo me spiega in maniera proprio lampante che cos'è un giovane e cos'era questo giovane, nuovo giovane, insomma, e lui lo spiega sicuramente meglio di chiunque altro, è incredibile. E è a metà più o meno del primo video, del primo video della prima della cartella Cangaceiros. Ha messo questo? Eh. gente invece più legata al partito comunista, così, circa a metà. Comunque di mettere dei controllori, dei commissari politici, ci sono dei grossi casini. Appunto questa roba come la gente, secondo me. Ora un po' il segretario della commissione lavoro. Un po' indietro. Quello che si è girato. 10 secondi indietro. Comunque va bene. Sul circolo, sulla okay, storia del circolo, eccetera, che fiscalizzerà sociologia industriale, sociologia della conoscenza, no? Cioè, sociologia industriale. Vedi che succede. È proprio fiscalizzare. Come? Ma la gente, secondo me. È il segretario della commissione lavoro. Quello che si è girato. Vabbè, no. Ma io adesso sono in aspetta. Chi è? Sono una supposta con i ricci. È lui la figura interessante. Allora c'è sta cosa qua, no? Io adesso sono in aspettativa. Sono 4 mesi che sto in aspettativa, no? Sono matto! E il 6 gennaio mi scade l'aspettativa. E il 6 gennaio mi licenzio, no? Perché non ci sono. E io lavoravo in ospedale. Mazzo, questo si gira. Lavoravo in ospedale, no? Ed era l'unico lavoro che mi piaceva a me, no? Cioè fare l'infermiere, no? Ho lavorato 1 anno e mezzo. Però dopo 1 anno e mezzo, mamma mia, dopo 1 anno e mezzo sono spiellato, no? Ci ho detto basta, non ce la faccio proprio più, no? E ecco, come c'ero arrivato io a entrare a lavorare, no? Cioè, dopo vabbè, 7 anni di minchia, no? A girare, scappato di casa a 13 anni, tutta sta storia qua, no? Così, no? Dopo sta cosa qui, vado, cioè, non, mi giro indietro e c'è terra bruciata, non c'è più un cazzo, no? Così, proprio, sono dal culo completamente, non faccio più un cazzo, ma proprio più niente, no? Oh, per 1 anno e mezzo mi faccio delle sicurezze, no? Mi faccio il lavoro stabile e sicuro, che bene o male mi piace, no? Perché mi piace lavorare in ospedale, ci sono stato tanto tempo ammalato, adesso faccio l'infermiere. Mi piace avere un rapporto di sicurezza con una compagna, no? Ce l'ho per 1 anno e mezzo, no? Ho capito? E mi piace anche, non lo so, avere una sicurezza, torno anche a casa, no? Per 1 anno e mezzo me ne torno a casa con i miei, no? E mi faccio sta cosa qui, capito? Dopo 1 anno e mezzo però sbiello, no? Perché dico, Dio fa, no? Succede che mi fermo un attimo e penso e dico, mamma mia, dove cazzo sono finito? Cioè dico, dove sto andando, no? Perché casa, lavoro e Anna, no? Sta cosa qua, bestiale, cioè non facevo proprio più niente, no? Allora dico, no, io delle cose fuori voglio farle, no? Allora esco fuori, capito, no? Esco fuori, dove vado? Al circolo del Prato Giovanile Cangasello. E così mi faccio una cosa come un po' di mesi col circolo del Prato Giovanile Cangasello. E minchia di fa, no? Vabbè. Ci lasciamo per. Terra bruciata. Ho fatto delle cose fuori, no? Però ho perso anche delle cose dentro, no? Perché mi ritrovo in questa situazione qua che sto proprio male, no? Ma proprio male. E vabbè, allora ne voglio uscire fuori, no? Cosa? Non sembra, ma io reagisco. A me mi chiamano Ninetto. Forse. Ebbene, no? Allora reagisco, hai capito, no? E cosa faccio? Mi fermo un attimo a pensare e dico. Aspetta, non mi inquadrare adesso perché dicono. Non mi inquadrare perché sennò qua. Allora dico, tornare a fare delle cose che facevo prima, no? No. Ecco, no? Non ci torno più, no? Perché dico, sarebbe un ritornare indietro, no? Poi c'è tutto un discorso politico, gli spacciatori, no? Tutte queste cose. Cioè, mi hanno politicizzato, allora hai capito, non lo faccio più, no? No, sono cresciuto con dei contenuti, no? E sono cresciuto, allora, no? Ogni tanto, no? Cioè, sono 22 anni, non mi hanno mai cuccato, no? Ogni tanto prendo qualcosa, mi approprio, esproprio, no? Questa cosa qua, no? Ogni tanto rubo, no? Allora, io fa, e mi arrangio, hai capito, no? Mi rubo questa camicetta, mi rubo questo pantaloncino, no? So, rubo un casino di cose, rubo. E mi va bene, hai capito? Cioè, però dico, va bene fino a un certo punto, perché non è che puoi fare una cosa... Cioè, stare casino nel pantalone. Rubare va bene, no? Però, dico, io fa... cioè, allora cosa faccio? Dico, mi metto a vendere. Cosa? Non quelle cose lì, no? Eh? Vado a Prato, compro dei vestiti e li vendo ai compagni. Dio fa, non l'avessi mai fatto. Ho speso 155.000 lire di vestiti, 95.000 lire di viaggio, sono 250.000 lire. Fino ad oggi ho venduto 31.500 lire. Dio bastardo, da dove cazzo niente non ho questi soldi? Cioè, sono proprio dal culo, hai capito? È vera questa cosa che diceva lui rispetto all'informazione, no? Perché adesso so già, no? Cioè, dovessi rifare una cosa adesso, no? So già a Prato dove andare, perché prima ero andato da un compagno, però Dio basta. Ecco, sì. E secondo me, beh, se qualcuno conosce Di Netto, io lo vorrei conoscere. Non lo so. Mi piacerebbe incontrarlo, questo personaggio qua. È del Cangaseo, sono dei primi circoli del Proletario Giovani di Torino. E questo è un video di Alberto Grifi e dei Dodo Brothers, che erano questo collettivo... così, nato per caso con un videotape in mano attorno al 77 più o meno. E, però lui lo spiega bene cosa fa, cioè ruba, si appropria, lui dice, e si fa di eroina, e questo è uno dei problemi della gioventù del tempo, e molti circoli di proletto giovanile, parlo ad esempio del Ciovassino, in via Ciovassino, in Brera, era proprio il centro dove si curavano questi ragazzi. Tenta un commercio così estemporaneo di vestiti, va a Prato, che era ancora oggi, vabbè, uno dei centri dove si smerciano questi vestiti, ma non va a buon fine. A Macondo poi ci tentano a fare l'aula, la saletta dei vestiti, ma anche lì Macondo è un'esperienza di 4 mesi. Comunque sì, vivono la giornata, insomma, si tenta il giovane vive la giornata, e con espropri, furti, microcriminalità e quant'altro. E poi feste, c'era il tema della festa. Esatto. Ad esempio, Gianni, avevi messo quelle fotografie che ci sono là, sono la tua esame, mi dicevi, di maturità. Sì, di maturità. Il materiale del mio esame di maturità all'istituto tecnico. Però appunto, sì. Sono una serie di fotografie che faceva queste feste del proletariato giovanile. Il microfono! Di quella stagione e... quella stagione poteva essere di quei 2 o 3 anni, 75, 76, 74, così, dove in parallelo al centro aggregativo che era la Palazzina Liberty di Dario Fo, dove in primavera e estate, praticamente ogni sabato e domenica, era un luogo bellissimo, dove... No, no, lasciamo questo. Dove, insomma, i giovani si trovavano. E hai parlato. Poteva essere una piccola recita teatrale, ci poteva essere delle chiacchiere, dei momenti, diciamo, organizzati dal circolo La Comune che gestiva la Palazzina Liberty, di Dario Fo, oppure anche niente, era un posto dove stare. Sì. Già che hai parlato. No, ma già che hai parlato di teatro, c'è un altro video molto interessante, perché il teatro gioca un ruolo fondamentale, come la musica. Magari dopo se ci fai sentire qualcosa di quegli anni lì. Però appunto hai parlato della comune di Dario Fo, e Dario Fo, Palazzina Liberty, comunque aveva la comune, diciamo, in un certo senso gestiva anche o meglio, era dentro il centro sociale di Santa Marta. E... sì, insomma, ci giravano, insomma, tutto quell'ambiente lì. E a Santa Marta, tra Santa Marta e Fabbrica di Comunicazione, l'occupazione della chiesa di San Carpoforo, e lì ci sono state delle belle esperienze teatrali. Ad esempio, se Stalli, quando riesci, ci fai vedere il video La danza delle ore, giusto qualche... Sì. Vai. Certo. Sì. Sì. La comune di Dario Fo è una cosa. Sì, certo. Il centro nella Palazzina. Sì, sì. Quella di Santa Marta è un'altra. Sì. Vabbè, certo. Era molto vicina all'avanguardia. Sì, sì. Non era proprio... Sì. Sì, sì. Certo. Sì, sì, era la divisione della comune di Dario Fo. Però ci passavano anche loro, insomma, Dario Fo. Io ho trovato delle foto dove c'è Dario Fo. Alla... Sì, sì, sì, sì. E c'è questo video molto interessante di un evento teatrale dell'Odin Theatret all'interno della chiesa di San Carpoforo, che è stata denominata tra 76 e 78 fabbrica di comunicazione, e è un video molto interessante su appunto questo spettacolo dell'Odin Theatret. Stanley, riesce a farlo partire il video La danza delle ore? Non ho capito. Il libro delle danze o La danza delle ore? Perché ci aveva titoli diversi, ogni tanto si trovano titoli diversi. Mettilo pure a metà, tanto vediamo 5-6 minuti, è un video che dura più di mezz'ora. Però, insomma, vediamone un po', che è molto interessante. E appunto è l'Odin Theatret, che sono alcuni membri dell'Odin Theatret che all'interno della fabbrica di comunicazione si calano con trapezi, aliane dai soffitti. Questo appunto era uno degli spettacoli che è stato fatto all'interno di questo circolo del progetto giovanile, poi sì, più o meno, che era la fabbrica, che era la fabbrica di comunicazione. Questo video non so chi l'ha fatto, probabilmente me l'hanno passato per via attraverso, probabilmente uno dei militanti del Santa Marta o di Avanguardia Operaia, non so bene. Tornare sì, un attimo indietro, da un lato quando tu parlavi della vendita di vestiti è interessante perché lì c'è un libro di Jacopo Galimberti che parla dei finanziamenti per esempio a Potere Operaio attraverso l'apertura di gallerie d'arte, mi pare a Potere Operaio sì. Anche la lotta continua. Comunque insomma ad altre organizzazioni dell'area dell'autonomia, diciamo. E mentre anche tu parli in realtà di forme di finanziamento, che sia alla Casa delle Donne, che sia attraverso i vestiti in alcuni casi, e attraverso una serie di esempi parli di forme di finanziamento, e questo è uno degli aspetti forse interessanti di questa nuova mappa della città di Milano che vai formando e che vai raccontando, no? attraverso una serie di esperienze. La mappa appunto di Milano è però abbastanza mette in luce, credo, un aspetto interessante, cioè l'assoluto relativismo del concetto di marginalità o di underground. Spesso si trattava di luoghi che erano al centro della città, non ai margini, come poi invece sono in alcuni casi diventati, e la stessa marginalità veniva continuamente rielaborata, ecco, mettiamola così, certo. e non era credo una questione stabile, ma una questione di quasi di etichette che alcune volte venivano date o meno. E questo è un aspetto su cui, se vuoi, magari puoi dire qualcosa. Un altro aspetto invece è che appena prima, un passo prima della formazione, credo, dei circoli del proletariato giovanile, da quello che ho capito dal tuo libro quantomeno, tu affronti la questione della lotta della casa da un lato, la lotta per la casa, dell'autoriduzione e dell'occupazione abitativa, per poi giungere all'occupazione a favore invece di un uso degli spazi nel tempo libero. Questo è un altro aspetto che credo anticipi di un passo il discorso strettamente relativo ai circoli del proletariato giovanile. E a questo proposito mi ero tirata fuori una citazione del Dominio del Sabotaggio di Negri, esatto, è una citazione bellissima che ci apre anche alla cosa che dicevi all'inizio sul fatto, insomma, dischiude secondo me una serie di questioni sul fatto di cui parlavi all'inizio, di affrontare la cultura in senso lato, nel senso che tu non affronti... la veste grafica delle riviste, non affronti gli aspetti formali dei video, non affronti altri aspetti formali, diciamo, delle pratiche che vai analizzando, li attraversi in qualche modo, come se fosse una narrazione o varie narrazioni che si sovrappongono e in cui tutte queste fonti ti servono appunto nella tua narrazione. Tornando appunto alla citazione di Negri, nulla più di questa attività continua di francotiratore, di sabotatore, di assenteista, a proposito di quello che vedevamo anche prima, di deviante, di criminale che mi trovo a vivere. Immediatamente risento il valore della comunità operaia e proletaria tutte le volte che mi calo il passamontagna. Questa mia solitudine è creativa, questa mia separatezza è l'unica collettività reale che conosco. Nella felicità del risultato mi evita. Ogni azione di distruzione, di sabotaggio, ridonda su di me come segno di colleganza di classe, né l'eventuale rischio mi offende, anzi mi riempie d'emozione febbrile come attendo l'amata. Nel dolore dell'avversario mi colpisce, la giustizia proletaria ha la stessa forza produttiva dell'autovalorizzazione e la stessa facoltà di convinzione logica. Non so se vuoi parlare di questo passaggio. Ma sì, è un pezzo, ecco, interessante questo, prima perché non è Negri, certo, che siamo abituati, esatto, a vedere, cioè è un Negri... Sì, non so, io quando l'ho letto sto pezzo ho detto, ma che gli è successo? Cioè, è proprio un vitalistico, quasi, esatto, Giovanni Liszt. Cioè, lui si dice, vabbè, ma il sabotaggio, l'esproprio, il furto, la microcriminalità sono atti necessari per vivere quotidiano. Però è un pezzo quasi vitalistico, non so come definirlo. Sì, sì, Giovanni, è un Giovanni pezzo Lista, profondamente vitalistico, sì, sì, legato, cioè, proprio scritto quasi di getto, non so come definirlo. E allo stesso tempo credo che ci apra alle premesse necessarie per delle occupazioni relative, sì, all'uso degli spazi nel tempo, sì, libero. Sì, perché i circoli comunque erano spazi occupati, su questo, certo, non è che si può dire altro. Ma Condo, sì, si definiva circolo proletario giovanile, non era occupato, ma insomma proveniva sempre, i 12 fondatori di Macondo erano comunque esperienze di lotta continua, quasi tutti. Però sì, prima dei circoli, cioè i circoli nascono su gli esempi di quelle che erano le occupazioni di case degli anni precedenti. So che da quello che ho studiato, poi magari se volete dire la vostra, al principio da 60, anche prima, però comunque al principio degli anni 70 le case, le occupazioni avevano quasi essenzialmente uno scopo abitativo. Certo. Cioè si andava nelle case per dormire, per ripararsi dalle intemperie e quant'altro. Sì, forse un'eccezione era l'hotel commercio. Che sì, ce n'erano delle eccezioni. L'hotel commercio, che l'occupazione dell'hotel commercio appunto di Piazza Fontana, che diviene appunto la casa dello studente lavoratore, siamo al principio del 69, chiuderà un mese prima dell'esplosione della bomba di Piazza Fontana. E quello è forse uno degli unici elementi, occupazioni a scopo anche culturale. Lì c'erano le prime stamperie, prime serigrafie. Addirittura ho trovato dei manifesti recentemente fatti dal CPM, che erano le pre-brigate rosse, all'interno della casa dello studente lavoratore. Comunque, essenzialmente, avevano uno scopo abitativo. E c'è un video interessante che però magari lo conoscete tutti, magari, e non te farlo vedere, esatto, che è la città del capitale, il collettivo cinema militante, che fa vedere bene appunto che cos'erano le occupazioni. Via Tibaldi, uh-huh, un esempio, è uno degli eventi cardine delle occupazioni di Milano, quando vengono sgombrati in via Tibaldi tutti gli occupanti, 100-150 famiglie, vengono ospitate alla facoltà di architettura portoghese, in questa, mm-hmm, insomma, li riparano lì dentro. Muore anche un piccolo ragazzino, un bambino, un infante, e quant'altro. E però appunto in questo filmato si capisce bene che le case avevano quasi esclusivamente uno scopo abitativo. E poi, come dicevo prima, arriva la crisi petrolifera, arriva un nuovo operaio, arriva un nuovo modo di intendere la vita, e quindi arrivano i circoli di proletariato giovanile che occupano gli stabili non solo per farne un qualcosa di abitativo. Sì, in alcuni ci abitavano, al Fabricone ad esempio, in via Tortona, mm-hmm, e ci abitavano, però al Fabricone avevano un gruppo teatrale, avevano un ristorante macrobiotico, il gruppo teatrale si chiamava Teatro Emarginato, avevano il locale macrobiotico, facevano concerti, e ci passava la comune di Dario Fo anche lì, Dario Fo e compagni, e sì, e poi avevano capito che la cultura era un momento aggregativo molto importante. La fabbrica di comunicazione, mm-hmm, non aveva uno scopo abitativo, assolutamente, esatto, lì dentro non si abitava, si facevano ogni giorno, ogni settimana, quotidianamente, esperienze culturali, Living Theater, Odin Theater, la questione cilena, alle fabbriche di comunicazione sono passati tanti, o meno, sì, due esperienze legate ad artisti e situazioni del golpe cileno, insomma, del governo reazionario cileno. E la musica magari gioca un ruolo fondamentale, e i cileni, sì, se c'è qualcosa di cileno che in quegli anni diventa qualunque festa dell'unità, ma non solo le feste dell'unità, cioè del Partito Comunista, ma anche i circoli del proletariato giovanile erano molto attenti alla causa cilena. E c'è anche da dire che a questo proposito c'era anche il lavoro dei pittori di Porta Ticinese. Sì, sì, sì, sì, sì, insomma, certo. A Milano c'erano tante esperienze vicinissime esatto, ai cileni. Tra l'altro la fabbrica di comunicazione che citavi mette in campo anche una serie di questioni proprio sulla comunicazione su cui aveva lavorato anche attraverso. Okay. Devi togliere il video. Ah. Ok. Vai. Sì, sì, ho voglia. Sì. Sì, il 1973 è l'inizio dell'uso della crisi sulla condizione proletaria, che è una crisi sistemica che viene utilizzata costantemente nella storia del capitalismo. Ma c'è un altro aspetto che il libro elide, cioè non considera. Il 1973 è l'anno più alto dell'autonomia operaia nata nelle assemblee delle grandi fabbriche milanesi, perché coincide con l'occupazione della Fiat. Lì l'operaio massa destruttura completamente l'organizzazione tayloristica del lavoro. Certo. Istanza recepita dalla classe padronale, che effettuerà la smobilitazione della grande fabbrica, la distribuisce sul territorio. Contemporaneamente finisce il ciclo di occupazione delle case, che era iniziato come fase alta dello scontro in via MacMahon, che era stato fatto dal collettivo politico metropolitano, poi Sinistra Proletaria, che non è l'incunabolo delle Brigate Rosse. Non dire queste cose, scusami, ma la storia interna è diversa, ti assicuro. È diversa perché a un certo punto all'interno del collettivo politico metropolitano c'è un dibattito e alcuni prendono certe strade leniniste e altri esprimono altre soggettività, ma di per sé non è un nucleo omogeneo che poi sceglie l'avanguardia leninista. Nel 1973 cambia anche il modello di occupazione delle case. L'occupazione di case di Via MacMahon, che io ho citato, è vero che va a sopperire insieme ad altre micro occupazioni a un bisogno proletario di avere un tetto sulla testa, perché era finita la costruzione delle case popolari e quindi l'ultimo ciclo di migranti a livello individuale non aveva spazio se non le case minime di Baggio, che sono dei lager, li hanno copiate poi per farci i CPR. Inizia, ma l'occupazione delle case aveva un altro senso in via MacMahon. Quando andiamo a occupare via MacMahon, ero giovane ma c'ero, l'occupazione venne fatta da CPM e da un gruppo anarchico milanese delle fabbriche autonome, insieme a un gruppo di studenti anarchici, di Azione Libertaria, Sid Siemens, Alfa Romeo, Pirelli e il gruppo Kronstadt di nuovi studenti, aveva anche un altro scopo. La casa faceva parte come diritto del diritto alla città, cioè di usufruire politicamente delle risorse della città, e contemporaneamente era uno strumento di difesa del reddito familiare, perché l'affitto non si paga, come non si paga il trasporto, perché fanno parte della giornata lavorativa. C'erano le parole chiave: la casa si prende, l'affitto non si paga, nostra casa è tutta la diffuse città. Di massa, dove in questi anni, poi ti lascio la parola, dove in questi anni la fabbrica della cultura viene smantellata. Perché se prima la cultura poteva essere o l'Accademia Kantiana di buona memoria, oppure un momento di fabbrica del sapere, quando l'autonomia operaia 69-73 manifesta la capacità di autogestione del mondo reale delle cose e della propria vita, e quindi la vita diventa un elemento creativo, ma non nel senso culturale, nel senso di riappropriazione e rielaborazione di modelli di comportamento e di relazione che sono superiori alla miseria del mondo esistente, la vita diventa creativa, la cultura dimostra, borghese, perché solamente borghese la cultura, la propria inutilità, e sarà la cultura a inseguire poi il movimento reale che è istituente e costituente. Il teatro che abbiamo visto, francamente, per un proletario era assolutamente incomprensibile. Il Living Theater, quando arriverà in Italia e a Milano, dove andrà? Nella casa occupata di via Correggio, ma questa è un'altra storia. 18. Anche, sì, tra gli altri. E ultimo, ma non ultimo, allora la cultura è, purtroppo, si porta dietro una soggettività controrivoluzionaria che è l'elemento americano della Beat Generation. E quindi l'esperienza di Renudo, eccetera, che aprirà poi la porta alla decultura dell'eroina, che è uno strumento utilizzato di repressione, si dimostrerà, uno, un elemento vacuo, inconsistente, non modifica la tua condizione e non inciderà sul cosiddetto proletariato giovanile, perché che cosa incarna questo proletariato giovanile? Quello che l'autonomia operaia aveva sparso sul territorio uscendo dalle fabbriche quando queste vengono ristrutturate e disperse. Il rifiuto del lavoro. Il cosiddetto proletariato giovanile non è una questione anagrafica, percepisce la mancanza di futuro dentro il lavoro salariato. Quindi le soggettività non passeranno più per la definizione attraverso il ruolo del lavoro. Perché quel tipo di lavoro, l'operaio, l'artigiano, l'insegnante, figura artistissima, l'insegnante, non sarà più un elemento di identificazione sociale, si sente bisogno di una vita altra. Questi circoli saranno dei tentativi di espressione, ma contemporaneamente ai circoli sul territorio milanese che cosa avviene? Che l'operaio che era uscito dalle fabbriche nel territorio ci impianta dentro altre lotte, occupazione di case diffuse individuali, le ronde contro il lavoro nero, e nasce la cosiddetta area d'autonomia, che in realtà sono una serie di movimenti, ma questa è un'altra storia. E ultimo non ultimo, le fanzine saranno lo strumento ponte quando arriveranno poi il movimento punk con l'occupazione del cinema al Cione, dove questi dal rifiuto del lavoro saranno consapevoli che non hanno futuro. Sì, no? Sì, sì. Ma questo è il prossimo libro. E un bel punto, quello che dici te, è Parco Lambro 76. Che lì succede un po' questo mischione tra l'autonomia, tra i circoli, tra lotta continua, potere operaio, e si ritrovano tutti lì, rosso. E c'è l'abbattimento di Renudo che finalmente ha fatto un smascherato, sì, espulso dalla storia, sì, finiranno tutti bottegati. Ma guarda, non sono d'accordo su questo, non posso dire una cosa, diciamo Mario Scanta dell'epoca, quando lotta continua si scioglie, quando lotta continua si scioglie, come tutti i gruppi extraparlamentari, perché sono inutili, perché la realtà di classe li ha ampiamente superati. E lo scontro è oltre la partitica intesa, la politica intesa come partitica, a parte qualcuno che poi cerca di riciclarsi elettoralmente come potere operario, come lavoratore operario, sui piccoli borghesi che hanno dei risultati elettorali come quelli di Totò nel film Vota Antonio, eccetera, l'onorevole del film. Quando lotta continua si scioglie, rimane in mano la cassa al signor Israel, che interpretando la rivoluzione del nuovo capitalismo liberista si autovalorizza e apre il primo caffè letterario di Milano, che è il caffè Pornoi all'angolo di Ticinese Colonna di San Lorenzo. Ovvero ciascuno rientra nell'alveo d'origine, i borghesi tornano a fare i borghesi. Altri due di Macondo erano i figli di Roberto Sambonè, per dire, sì, esatto, e che abitavano a fianco del castello. Macondo, i militanti di classe, eccetera, non hanno mai messo piede in quella situazione, cioè, perché lì entra l'epoca Berlusconi, aprono i legati locali da Macondo, certo, l'operetta, un cipe cicciata, sì, cioè sì, dove sì, sì, non esiste più il collettivo, ma esiste l'esaltazione dell'individuo. E su questo Berlusconi, la Thatcher, certo, i soci c'entrano a un luogo per soli. Assolutamente. C'era Gianni. Scusate, vai. Allora, no, lascia stare. Ovviamente questa è solo una delle tante visioni. Questo voglio solo dire. E non è neanche il caso di andare avanti a polemizzare. Scusate. No, a me, io anzi mi piace. Comunque. Cioè, bisogna dare merito anche a Renudo, anche alle esperienze di Macondo, e il discorso fatto così mi sembra un po' superficiale, perdonami. Tu avrai avuto una lettura molto profonda dal tuo punto di vista, d'accordo, io la rispetto, però non si può liquidare così l'argomento. Io voglio fare solo un esempio. Non ci fosse stato Renudo e la controinformazione riguardo le droghe, io probabilmente sarei finito là. Invece non mi sono mai fatto, devo dire grazie a Renudo, perdonami, questo è solo un esempio, grazie. Sì, ma è molto sfaccettato, cioè tutti, cioè, nessuno chiaramente c'ha la verità, e io nel mio libro ho raccontato... Invece c'è una cosa che mi piacerebbe segnalare, poi anche questa però è solo una visione mia, sì, sì, sì. Cioè i circoli del proletariato giovanile sono nati, secondo me, come la vedo la cosa, sono nati sulla crisi della militanza. Perché in realtà, cioè... prendi il microfono, che lo chiedono. No, ok. Fino a quegli anni, cioè, la gente, i giovani, i ragazzi, i compagni, si avvicinavano alla politica, ma con un occhio, diciamo, alle organizzazioni, cioè si avvicinavano alle organizzazioni politiche. Ma in quella fase le organizzazioni già all'interno c'erano un inizio di crisi, cioè di non sapere se aderire a una visione partitistica o di movimento, che erano le due contraddizioni forti che poi si sono rivelate nel tempo anche nel PC, cioè da tutte le... Quindi i giovani si avvicinavano con una visione ovviamente un po' sognatrice, no? Un po' romantica, giustamente. Io romantico lo sono tuttora. Cioè, e quindi non potevano entrare in un'organizzazione che era in crisi. E allora sono nati per questa ragione i circoli giovanili. Cioè, cioè in questa modalità, cioè facciamo qualcosa che non è il partito, che però affermiamo la volontà di ribellione, di gioia, di creatività, no? Era un grande ibrido, un grande ibrido di pensieri, di momenti. Io concordo con quanto... Io concordo col dire che poi sono stati molti ragazzi dei circoli sono stati riciclati alla, da Berlusconi, da Craxi o quant'altro. Questo certo, sì, esatto, sì. Certo, esatto, sì. Ma già ai tempi, perché comunque la fabbrica, certo. Sì, ma certo, su questo già ai tempi, già durante quegli anni lì, perché la fabbrica di comunicazione era direttamente finanziata dal PSI di Craxi e di Micheli. Beh, a fianco, è certo. Sì. Sì. Certo. Sì, sì, Formentini. Certo. Craxi per voce del suo portaborse che era Cornelio. Sì, sì, ma Cornelio Brandini. Sì, sì, sì, sì. Ma infatti. E che cosa succede? Che a un certo punto svanisce la fase dell'occupazione e tutto viene preso. Certo. Sì, sì, sì. E poi a sua volta tutto poi. Certo. Sì, sì, sì, sì. Ma c'è una precisazione che volevo fare. Mm-hmm. Sì. Vai. Che è un po' il nodo, il problema è un po' questo. Che quando si fa una ricerca, avete la fortuna di avere ancora persone viventi, no? Su questo materiale che stai trattando. Quando si fa una ricerca, soprattutto su un periodo di questo tipo, che cosa succede? La scrittura è di per sé un mezzo morto. Cioè, quello che puoi leggere sui libri non ti dà quelle che sono le tensioni reali che si sono respirate in quegli anni. No? E ti dà... E fa fare anche degli errori, perché spesso le edizioni sono molto simili. Ad esempio, lui usava il termine autonomia operaia prima, no? L'autonomia operaia non è un'organizzazione, no? È un processo, sì. No? al quale fa riferimento potere operaio, lotta continua, e farà riferimento l'organizzazione autonomia operaia, che sono due cose diverse, però. No? Eh? Come lotta continua no? Ma scusa, dai quaderni rossi, scusa un attimo, da Panzeri in poi, ma scusa un attimo, la lotta continua ce l'ha come base l'autonomia operaia. C'è anche una... Scusa, lo slogan autonomia operaia, organizzazione, lotta continua per la rivoluzione, cos'è? Era lo slogan di lotta continua. L'autonomia operaia è la base dell'assemblea autonoma, alfa meno che vede punto, storicamente, con i documenti che si chiamano. Vabbè, d'accordo, non voglio discutere di questo, torniamo ai circoli giovanili perché qui sembra quello che l'organizzazione sì, d'accordo, ne parleremo una serata quando parleremo dell'autonomia operaia. Il prossimo libro. Quello che voglio dire, le tensioni erano tante, sì, no? Erano ancora tante. Ci sono tanti elementi, quello che ci dicevi prima del Cile. Il Cile è uno shock politico per tutti, perché si capisce... È uno spartiacque, fondamentale. È uno spartiacque, per cui il Partito Comunista va a elaborare la strategia del compromesso storico. No? L'austerity, che ricordavi tu che è importante, il Partito Comunista che cerca di entrare in un modo morale, sì. Dice dobbiamo fare sacrifici, dobbiamo accettare i sacrifici per salvare la classe. Certo. E la risposta che danno i circoli giovanili è proprio quella di sacrifici non li vogliamo. Sì. E quello è il punto di... No? Quello che diceva lui prima, c'era la militanza, tu facevi militante per i proletari. C'è ad un certo punto uno switch, un salto, per cui dici no, io non faccio il militante per gli altri. Lo faccio per me, sì, sì, sì. Cioè la casa la occupo per me, per il mio diritto a piacere, per il mio diritto ad esistere, no? Sì, in base a quello. Ed è quella forse la ricchezza di quel movimento. Non sono assolutamente d'accordo sulle visioni soggettiviste per cui ci sono stati i buoni, i cattivi, figli della borghesia. L'altro lato fondamentale per quel che riguarda Milano, perché è l'unica realtà che conosco direttamente, è questo ingresso dei ragazzi dell'Interland e delle periferie, che erano un'area che non era, non apparteneva alle organizzazioni, non stava all'interno delle organizzazioni, chiaro? Un'area diffusa, un'area che di colpo iniziano a calare sulla città, a chiedere il diritto di vivere la città, l'autoriduzione nei cinema. C'era gente che non era mai entrata in un cinema di prima visione. Concerti, no? Cinema. I concerti, ecco. Il nodo è un po' questo. Basta. No, le autoriduzioni, ritornando al pezzo di Negri, che lui parla anche delle autoriduzioni, sono un evento importante a... culturalmente importante. Nel libro non ho trattato tanto delle autoriduzioni, ma ho scritto... Hai parlato del biglietto del tram, però... Il biglietto del tram di Macondo. Sì. Macondo, vabbè, già che ci siamo... arriviamo a Macondo. È un elemento importante all'interno della cultura dei circoli di Milano di quegli anni. Siamo in quello che si avvicina al riflusso, diciamo. Il periodo che si avvicina a riflusso, siamo lì, siamo in quell'anno, siamo tra 77 e 78, Macondo viene aperto più o meno a novembre, dicembre, quale date sono un po' discordanti, io dico dicembre, 77 viene chiuso nel febbraio, metà febbraio del 78, 4 mesi, non sempre aperto perché poi ci sono state le interruzioni, vabbè, comunque 3-4 mesi di apertura, 12 militanti, ex militanti di lotta continua, quasi tutti appartenenti all'alta borghesia milanese, perché due ad esempio erano figli di Roberto Sambonet, che era un po' la mente... Scusa? Sì, cioè, dico tra i veri fondatori, tra quelli che hanno firmato il contratto di affitto del locale, figli di Sambonet, appunto Sergio Israel, che poi farà tutta l'organizzazione delle estati milanesi, Navigli e così via, e tanti altri. E Rostagni, ad esempio, lui veniva dall'Università Negativa di Trento, insieme a Curcio, insomma, però erano economicamente benestanti. E Macondo era un locale legalmente... come si dice, con contatto d'affitto legale, quindi non era occupato, si definivano però circolo del proletario giovanile. Il problema è che i circoli erano entrati in crisi sia dopo l'esperienza di Parco Lambro 76, sia dopo i riot della Scala del 7 dicembre 76, quando appunto per impedire la prima della Scala di Zeffirelli, dell'Otello di Zeffirelli, insomma, succede un po' un patatrac, feriti da una parte, feriti dall'altra, e i circoli, diciamo, che entrano in crisi. Macondo, un anno di distanza da questi fatti, un anno e mezzo di distanza, e in un certo senso recupera quelle istanze che erano state proprie dei circoli. All'interno verranno fatte mostre di disegnatori francesi, Moebius, verranno organizzati concerti musicali, Pino Masi ad esempio, anche lui protagonista dei circoli, ad esempio Pino Masi, insomma, e si venderanno vestiti, un ristorante macrobiotico. Ma la cosa interessante è soprattutto sono 3 giorni all'interno di Macondo di un happening che loro l'avevamo chiamato l'arte d'arrangiarsi. 3 giorni appunto di interventi, dibattiti, conferenze su come arrangiarsi la vita quotidiana, ossia come vivere bene, come tentare di vivere bene. Avevano messo in comune questi ragazzi gli escamotage per creare le passepartout, per aprire le cassette della SIP, rubare i gettoni, rubare le monete e così via, su come togliere le etichette dei prodotti alimentari, dai vestiti, così via, o come falsificare le bollette elettriche, così via, tra cui il famoso biglietto del... non scorre più, però il famoso, avevano, durante quel giorno lì avevano creato quel famoso biglietto, il falso biglietto dell'ATM, dove a posto di vale un viaggio, c'era scritto vale uno spino, uno spinello, e che causerà anche la chiusura di Macondo e quant'altro e così via. E interessante che il terzo giorno di questo intervento, e di questi tre giorni, venne dedicato alla svendita del 68. La svendita del 68, siamo appunto nel gennaio, fine gennaio, 29 gennaio se non ricordo male, del 78, a 10 anni dal 68, questi Macondini mettono in vendita, fanno proprio un'asta, loro dicevano che in quest'asta avrebbe dovuto essere tenuta da Primo Moroni, in realtà non c'era Primo Moroni, ma era Daniele Ioffe che era il firmatario del contratto d'affitto del locale, a mettere proprio in vendita documenti del Maggio Francese, foto del Maggio Francese, di Mao, di Lenin, di Capanna e di quant'altro. E perché? Perché avevano capito che al 78, a 10 anni dal 68, un mondo culturale, una tipologia di vivere, di impostare la propria esperienza quotidiana era finita. Sì, sì, da un lato questo ci apre poi, cioè apre poi il panorama a quello che raccontavate prima, cioè. Da un lato al militante che lavora per sé, ma questo già sì, sì. È opera per sé, e dall'altro al certo. neoliberismo sì. Che arriverà poi con il cosiddetto riflusso. Sì, io sì. non so se vogliamo chiudere e magari dire qualcosa sui video che farai vedere adesso. Sì, possiamo vedere alcuni video... Sì. Come? Poi Stanley, se ti potrei chiedere, ti posso chiedere di vedere i video, quello sull'arte da arrangiarsi e sulla svendita del 68. Posso parlare? Ma innanzitutto bisogna fare un applauso ad Andrea e anche alla Sara, perché ragazzi così giovani che fanno che vanno a mescolare i loro studi in un periodo così difficile della nostra epoca, ma mi è stato veramente un applauso. Io poi conosco da tanto tempo loro perché sono dei ricercatori veramente minuziosi, davvero, tutti e due, sia Sara che Andrea. Li abbiamo conosciuto ai tempi dell'edicola che non c'è e stanno facendo un lavoro veramente capillare su quel periodo storico lì. Per quanto riguarda, e finisco qua, per quanto riguarda il circolo giovanile del proletariato, per quanto ne so io, loro vivono una stagione brevissima che forse non arriva al Macondo. Il Macondo si definiva, loro si autodefinivano un circolo del proletariato giovanile. Sì, perché ormai, cioè il circolo del giovanile del proletariato, secondo me, partono da la primavera del 1976 e finiscono in via De Amicis nel maggio 77. Almeno stagione più forte è così, poi ci sono sicuramente quegli altri che andranno avanti, le direzioni che volete prendere. Chiaro, poi è la direzione della sconfitta, però quella. In mezzo ci quella sono è la direzione della sconfitta. Sì, sì, sì. Poi ci sono delle tappe in mezzo, Parco Lambro, La Scala, De Amicis. Quello tutto nel 76. Sì, allora, sì, io credo che il 1976 a Milano è anticipato in qualche modo il 1977. Sì, è stato un'anticipazione forte. Di proprio questo Bellini mi diceva sempre noi eravamo la punta del diamante, diceva, no? Noi eravamo proletari e i primi che sono andati all'università, e dietro di noi il triangolo si allargava sempre di più fino ad arrivare appunto nel 1976, più o meno così. Poi il 77, quello che è successo, non è inutile che andiamo a cercare i colpevoli, sono quelli, sono quegli altri, Israel piuttosto che gli stalinisti, piuttosto che addirittura quelli di Macondo o quelli di Renudo. No? Il 77 è stato un anno, Gianfranco Manfredi ha chiamato il Big Bang, no? Ecco. Ma la cosa bella dei circoli giovanili del proletariato era proprio questa, era il sottoproletariato che si ribellava. Io mi ricordo, io avevo 15 anni, io mi ricordo al mio istituto tecnico per chimici, quelli che avevano 18 anni, costituivano dei gruppi d'attacco al potere costituito e si organizzavano in circoli proletariati del giovanile, cioè è una cosa incredibile quella che rappresenta dal punto di vista dello scontro sociale, dello scontro di classe, cosa erano l'ultimissima cosa, noi punk siamo i figli della sconfitta, arriviamo, non ci capiamo niente, non ci capisco neanche niente adesso che state parlando, anche se ho studiato tutta la vita questa cosa, conosco tutto e tutto, però noi arriviamo figli della sconfitta, però voglio dire, non è che i punk sono nati all'Alcione, i punk sono nati in via Correggio 18, di cui questo posto, Correggio 18, Cox 18, è in qualche maniera in continuità. E i punk, soprattutto gli anarco-punk, erano delle persone, che sono ancora adesso, quei pochi che siamo rimasti, persone che erano intellettuali organici sostanzialmente. Hanno sempre parlato alle periferie e sempre parleranno alle periferie. È soprattutto l'anarco-punk è sicuramente una continuità con la parte più radicale rappresentata dai circoli giovani del proletariato. Grazie. Però cioè, io concordo, ma il punk del 77 secondo me è anche figlio dei circoli, come diceva Moroni con John Marti. Certo. Sì. Quando finiscono. Succede questo, intanto non sono un'organizzazione. Tenete conto che nel 75, questo è lo scenario generale in Italia, ci sono le elezioni amministrative. Vince il PCI, cioè vince. E c'è una vittoria della sinistra, cosa insperata. Sì, sì. La prospettiva generale di quegli anni è che si sta facendo la rivoluzione. Questa è la prospettiva generale. Sì. Se andate a leggere anche Pasolini, ancora gli ultimi scritti, sono di polemica, ma all'interno di uno scenario che è quello della rivoluzione che stiamo facendo. Ok? In mezzo c'è questo episodio del colpo di Stato in Cile. Nel 76, alle elezioni politiche... Ancora di più. No, non si vince. Beh. Se prendi il disco di Parco Lambro, prima c'era la copertina, il disco di Parco Lambro c'è una registrazione di Finardi che canta e dice ci manca un 1% e potremo, ci manca un 1% perché non si vince, si viene sconfitti. E lì... Oddio. Cosa? Non so se non si vince, cioè effettivamente nessuno si sarebbe un aspetto... No, a livello elettorale... Intendi il PCI o intendi le... No, le sinistre non vincono nelle elezioni del 76. Sì, no, io avevo capito, scusa. Sì, questa è una botta, botta importante per le organizzazioni politiche. No, avevo capito il PCI. La vecchia visione della militanza. Sì. Quando c'è il Parco Lambro, è pochi giorni dopo, perché le elezioni sono state, se non mi sbaglio, il 20 giugno, 15 giugno... Una settimana. Parco Lambro è una settimana dopo. Ed è lì che esplodono tutte le tensioni, perché l'ala più radicale, quella che fa capo poi all'autonomia operaia, che si è affermata, l'autonomia operaia come organizzazione, che io mi ricordi, poi magari sbaglio, il momento clou è stato qualche anno prima tra i giovani, no, come presenza tra i giovani parlo, nei giorni, i famosi giorni di aprile. In sostanza, no? Da lì in poi esce. Cioè, Rosso inizia a occuparsi del sociale e del giovanile. No? Ecco. Che cosa succede? I circoli giovanili partono in quarta con questa idea, occupiamo degli spazi dove ci aggreghiamo, dove ci organizziamo la nostra vita, dove facciamo una controvita, per cui Renudo è importante, non tanto perché Renudo viene a capitanare le cose, ma perché ha dato degli elementi culturali per poter interpretare i nostri bisogni, non so come dire, no? Sì, no, ecco. Allora, quando finisce quest'onda? Allora, si parte con l'autoriduzione di cinema, che richiediamo l'accesso alla cultura, no? Si parte anche prima da Frank Zappa, quando è stato a Gigorelli, cioè, quando si parte? Frank Zappa, scusa, è un'altra storia ancora, è un prima di prima, cioè, voglio dire, è la preistoria di questo, no? Quando si parte? Sì, ovviamente. Quando non si sa quando si parte. Poi c'è un momento importante che è il convegno della statale, con l'occupazione della statale. Pochi giorni prima della 7 dicembre. Della prima alla Scala, 7 dicembre, massacro. Dopo questa cosa si va nel 77. Nel 77 è come se chiamiamola leadership ideale del movimento la prendono i bolognesi e i romani. E romani, certo con gli indiani metropolitani, esatto, indiani metropolitani, esatto, e Bifo. I circoli di Milano avevano preceduto tutta questa cosa. Assolutamente, concordo. Dopo... Ah, scusa, sì. No, volevo... No, volevo solo... concludo. Dopodiché c'è una seconda stagione che è legata a Piazza Mercanti, che è quella che coincide con Macondo e con quello che dicevi, sì. Scusa. E la chiusura di Santa Marta con Joe Squillo e Campana. Se si possono vedere, giusto brevi filmatini sull'arte di arrangiarsi e su... Ah, sì, sì. No, che stavamo parlando di Macondo, ma comunque... No, sì, appunto. Sì, sì. No, ma chiaro. Poi invece è stata un'evoluzione continua con mille fatti. Certo. Mentre succedevano queste cose a Milano, a Roma c'era pure San Basilio, che erano dei, sono successi degli altri fatti, sì, sì, sì, completamente diversi. Ma non si possono prendere scollegati migliori, peggiori e cose. C'è stata tutta una amalgama di cose. Perché? Perché era quella contraddizione che si viveva sia nelle organizzazioni politiche che nell'autonomia operaia, cioè il movimentismo o il partitismo. Perché scusatemi, anche nell'autonomia operaia non c'era una definizione di che direzione si voleva prendere, no? Era un'amalgama anche lì, ma comunque. Quindi tutte queste cose sono state compartecipi nella creatività positiva di quello che poi è successo dopo, no? Certo. Positivo, ma anche in quello che è stato invece quello che ha diciamo frenato, rallentato e estinto praticamente, certo, il movimento rivoluzionario che vedeva, no, negli anni precedenti l'attuazione di una sorta di rivoluzione nazionale. Sì, sì, sì. Quindi è tutta una malta. Sì, no, no, certo. Questo è meglio per la regola. La pensione di cosa? Vai. Certo. Chi vuole? No, vabbè, io non sono mai stata punk, va bene. Però, no, però è per la giovane età che avevo, perché io sono entrata a scuola nel 77, nella prima superiore, e comunque cresciuta a Lambrate, Conte Rosso, tutte quelle situazioni. Anzi, ecco, io ho un'esperienza, non voglio entrare nel dibattito adesso più strettamente politico, di io nasco come una proletaria di Lambrate che... i primi approcci con la politica li ha avuti col circolo giovanile di Conte Rosso, che poi erano quelli che cresciuti in quel territorio di cultura operaia, e ci siamo aggregati alla commissione operaia del Leoncavallo vecchio e abbiamo occupato le case di Conte Rosso, che ancora esiste, e Dardanoni, e lì è nata una stagione politica interessantissima, perché era proprio il vivere giorno dopo giorno. La riappropriazione della vita, cioè io mi ricordo che eravamo il circolo giovanile di Lambrate, ma eravamo sempre nella città, sempre proprio ai concerti, ai dibattiti, alla Palazzina Liberty, cioè era proprio un riappropriarsi di tutti gli elementi fondamentali e fondanti di un'aggregazione politica nuova, che non era troppo sovradeterminata dall'ideologia di partiti e organizzazioni, ma era proprio un'esperienza nuova di vita e di sperimentazione politica, che ci ha anche arginato rispetto a quello che poi purtroppo ha trionfato in tutti i nostri quartieri, che è stata la devastazione delle droghe, la beh, poi a parte gli arresti ovviamente, perché poi eravamo attraversati da tutte le esperienze politiche, cioè nel senso che con noi andavamo a braccetto con i militanti magari che avevano fatto scelte molto più radicali di lotta armata, cioè nel quartiere si mischiavano veramente tante stratificazioni e componenti, che però era la ricchezza di quel percorso. Perché in quel momento era veramente, non dire, chi è che lo diceva prima, lotto per gli altri, ma era soprattutto parto da me, cioè metto in discussione quello che è il mio status di vita oggi, ora, qui, e lo faccio insieme ai compagni, o le compagne, insomma. Sì, sì, sì, sì. Grazie mille. Il microfono... Anch'io non c'ho molta voce, però qualcosa la voglio dire come esperienza personale, nel senso che a quell'età, cioè il periodo in cui stiamo parlando, avevo già una figlia, quindi ero ventunenne, diciamo, e allo stesso tempo frequentavo questo posto che era stato occupato nel 76 da molti compagni anarchici della zona sud di Milano. Venivamo da esperienze non del movimento anarchico ufficiale, cioè tipo FAI oppure altre organizzazioni, o Ponte della Ghisolfa, eccetera, ma eravamo più o meno cani sciolti, e quello che ci accomunava nella maggior parte del collettivo di gestione di questo posto furono che molte persone lavoravano in sanità. Sì, nella sanità, che proprio in quel periodo ha avuto il suo massimo, diciamo, splendore rispetto anche a tutte le varie formazioni della fabbrica e che c'erano allora. Cioè, la nostra esperienza di lotta all'interno degli ospedali è iniziata nel 75, per poi arrivare nel suo momento esplosivo 77-78 e poi subire anche noi dagli anni 80 in poi il relativo reflusso che ha colpito un po' tutti. Bene, l'esperienza che ho avuto in quel, quindi in quel periodo lì di contatti, ci si conosceva, avevamo frequentazioni anche di qualche riunione con i circoli del proletariato giovanile, soprattutto per quanto riguardava l'occupazione di case e anche dei centri occupati. Difatti c'era un coordinamento di case occupate che si riuniva a quei tempi in Correggio, che ha dato via poi dopo anche a tante altre occupazioni, tipo via Correggio è stato nel 75, via Conchetta nel luglio 76, poi dopo a settembre Torricelli e poi a seguire anche via Savona a Porta Genova e tante altre occupazioni che ormai non ci sono più. Quindi l'esperienza personale l'ho vissuto quindi proprio la serata di quando ci fu la manifestazione contro la Scala del 7 dicembre, dove qui fu allestito proprio una vera infermeria. Qua? Sì. Ah, non lo sapevo. Nessuno, non l'ho mai detto. Nel senso che eravamo proprio in riunione come organismi della sanità, perché qui dovete sapere che all'inizio l'occupazione era formata per il 95% da lavoratori della sanità, del Niguarda, del Trivulzio, del Policlinico, dell'Embrione del San Paolo San Carlo, che prima era Ronzoni, Principessa Yolanda, piccoli ospedali che sono nel centro di Milano, che però erano abbastanza attivi nel panorama complessivo della sanità. Difatti, non a caso il settore della sanità è quello che è stato il più numeroso, quello che ha avuto anche risultati, anche minimi, ma però li ha avuti a livello nazionale, senza essere all'interno di organismi sindacali, ma all'interno di rappresentanze di posti di lavoro, semplici collettivi di lavoratori, se non comitati di agitazione. Queste erano le nostre formule di organizzazione. Non eravamo inseriti in organizzazioni classiche sindacali, anzi ci fu un durissimo scontro quando ci fu a Riccione nel 76, quando da Milano partirono 5 pullman di ospedalieri per andare a contestare un convegno dei sindacati confederali in vista dell'approvazione di contratto. Ci furono scontri anche violenti, che però era quasi uno scontro interno, perché era a difesa del convegno della CGL, CISL e UIL, c'erano proprio cordoni di vecchi compagni comunisti, diciamo, che facevano da servizio d'ordine contro questi lavoratori autonomi anarchici della sanità. Quindi quella nottata lì, quindi qui fu un posto che fu proprio addobbato a infermeria, perché i feriti che arrivavano erano parecchi, molti anche nostri amici che conoscevamo, che frequentavano anche chi il Santa Marta, chi diceva chi la Fornace, chi il Fabbricone di via Tortona, li conoscevamo. Comunque all'interno di questo posto ci fu questo, quindi è una roba particolare che vi ho detto, per cui non so se lo sapevate o meno. Grazie. Guardami il video. Qua è sempre aperto il microfono, se qualcuno, se no ci sono qualche video ancora da vedere magari su Macondo interessanti. Sì. Sì, che non si finisce mai in realtà. Ci sono state molte precisioni nei commenti, purtroppo. No, ognuno c'ha la sua, chiaro, c'ha la sua storia personale. Beh, diciamo che noi sei l'abbiamo vissuta tutta. Sì, sì, sì. Certo. Grazie, grazie veramente. E niente, se si possono vedere appunto i video, giusto qualche minuto, saranno una decina di minuti su Macondo, quindi sono sempre video di Alberto Griffi da Dodo Brothers sull'arte d'arrangiarsi e sulla svendita. Magari prima vediamo quello sull'arte d'arrangiarsi, sì, su come appunto ci si arrangiava la vita e poi su... Ci spostiamo. Sì, su... Sì, mettilo pure quando cioè, vuoi. È quello tanto di studiare un tipo di veicolazione di queste cose tra di noi, no? Cioè, di modo che noi le cose che le sappiamo riusciamo a tenerle, no? Perché è un discorso anche di marcia. Cioè, nel senso... Nel senso che è chiaro... Io parlerei anche del resto, non solo di questo, ecco, anche se mi interessa. Sì, è chiaro, questo qui ha un interesse momentaneo, cioè, completamente mi sembra che... È chiaro? Cioè, dicendocele tra gruppi le cose, ad esempio, è molto più facile comunicare certe cose, è molto più facile anche tenerle. A mio parere, bisognerebbe anche vedere il tipo di risposta, no, che queste cose che noi andiamo a toccare, no? Cioè, delle chiavi, ad esempio, no? Cioè, ad esempio, la scelta è stata quella di aggiungere altre serrature. Ad esempio, bisogna capire, cioè, a che livello possiamo intaccare e i giochi entro i quali si possono muovere loro. Cioè, è evidente che secondo me è stata una scelta proprio tecnica incredibilmente stupida quella di affidare a una solo tipo di serratura l'apertura di tutte le cabine di tutta Italia, di modo che, cioè, era anche molto buono, era vincente trovare questa chiave qua e praticamente ce l'avevi in mano tutte. Il secondo discorso da fare, a mio parere, è di vedere un certo tipo di copertura legale, no? Che si potrebbe avere, no? O pseudo legale, quando cioè il nostro livello così di sabotaggio scade, no? Cioè quando la cosa viene scoperta, perché è evidente che prima o poi la risposta ci sarà, cioè io non credo che potremo andare avanti a lungo una volta che si è estesa a livello di massa questa pratica delle chiavi. Allora, ci sono delle cose molto semplici, a mio parere, che dovrebbero essere conosciute. Ad esempio, il livello di risposta che si può dare più o meno legalmente, a quanto mi è arrivato all'orecchio, no? Al fatto dei biglietti. Cioè, è chiaro, io non so i termini legali, no? Ma falsificare questi biglietti significa compiere dei reati, no? Perciò, ad esempio, ci si può coprire abbastanza bene, come mi è arrivato all'orecchio, io lo riferisco, no? Nel caso che il biglietto venga scoperto, no? Usando ad esempio un artificio, no? Cioè, praticamente, se si viene scoperti è molto facile, no? Dire che il biglietto è stato comprato, no? alla stazione, no? Da un tipo sconosciuto che doveva partire per, la stessa, per lo stesso posto e l'ha rivenduto. Con questo non si fa altro incontro che una multa, mi sembra, per incauto acquisto. Cioè, ed è qui, cioè, a questo punto che dovremmo imparare un po' a conoscere tutti questi sistemi, di modo che andiamo molto più sul sicuro. Quindi la veicolazione è una possibilità di copertura. Per esempio, no, nei negozi, nei supermercati, nessun proprietario può denunciare, no? E nessun proprietario può vincere una causa se chi viene preso non viene colto in qualche modo sul fatto, no? Cioè, ci sono dei prodotti tipo pane, carne, roba di sto genere, non so, frutta, no? Ecco, nei quali il prezzo non può essere stampigliato in, col timbro, no? Ma viene messo su un talloncino, no? Ecco, vabbè, su quelli col timbro di solito c'è anche il nome del negozio e quindi lì non c'è niente da fare, a meno che uno non, con l'alcol non riesca a portarlo via, insomma. Ma è già un po' più complicato. Per quanto riguarda gli altri prodotti invece, si può tirar via il talloncino. Ecco, e nel momento in cui uno non viene scoperto che sta tirando via il talloncino, il prodotto è suo. Di solito i negozianti agiscono così sul terrorismo psicologico, andando anche incontro a processi. La gente ha paura di andare incontro a processi, però ecco, se si sa e se si è sicuri, no, che nel processo si vince, non ci sono problemi. Perché nessun giudice può mai incolpare uno di una cosa, di aver portato via una cosa. No, è una casalinga che sa rubare molto bene. No. Quindi anche andare incontro a un processo non deve fare alcuna paura, perché niente, il giudice non può assolutamente condannare, no. Io. No, nessun. Beh, cioè, se il sorvegliante ti becca mentre stai tirando via, vabbè. Se invece per esempio ti becca la porta, no, e ti dice svuoti la borsa, tu tiri fuori quello che c'è nella borsa, lui non può dimostrare che hai portato via il coso, no, lui ti minaccia di andare in processo, anche ti denuncia, anche vai in tribunale, ma la vinci tu alla fine ed è lui condannato a pagare le spese processuali e tutto. Io dico questo perché no, la confezione è il nylon di solito, non, nel quale non c'è il nome del negozio, perché ho parlato così non ovviamente per me, ma insomma con il vicepresidente dell'associazione commercianti della provincia dove abito io, e ho assistito, sono andato a assistere a due processi contro due donne. E tutti e due i processi sono finiti così, insomma, cioè che le due donne sono state assolte e i negozianti sono stati costretti a pagare le spese processuali, salvo querele, che poi lì si può anche querelare, querele da parte delle donne, no? Cioè da parte di chi... Cioè, su questo tipo di controinformazione è importante... Qua? Se lo muovi così non riesco a inquadrarlo. Però ne sono 5, sono scontate. La tecnica è molto semplice. Praticamente si va a... Si va alla stazione e si fa dare un biglietto. Poi lo si fotocopia, se ne fanno molte fotocopie. E si piglia, si cambia la data qui. Per esempio, qui c'è scritto 28 dicembre, faglielo vedere qua 28 dicembre, no? 28 dicembre, noi ci serve il 29, cancelliamo con una penna, una gomma matita l'8 e gli mettiamo con una lettera 7 dello stesso grandezza il 29, il 9, no? Poi rifotocopiamo, ci viene il biglietto in edizione giusta, no? Dopodiché si piglia, si attacca qua dietro, contro luce, no? Praticamente. Non c'è la luce qua, non si può vedere. Si attacca il cartoncino qua, no? Poi con un paio di forbici si taglia, tagliando via queste linee, no? Nere, no? E viene un biglietto perfetto, che neanche il controllore se ne accorge, in quanto gli inchiostri sono diversi a seconda delle varie stamperie, delle varie biglietterie. Questo qui è il biglietto già fatto. Vedete? Voce! veramente una persona che sia un pochino pratica graficamente, no? Non è assolutamente difficile, cioè il bollo viene impostato in questa maniera qui. Perché non lo fai forte? Ah, ok. Cioè, nel senso che... I timbri della posta come si possono fare? Cioè tutti quelli che sono, diciamo, graficamente, che lavorano un pochino di grafica, non è assolutamente difficile farlo. Adesso vi do per esempio il come falsificare un bollo di un'autovettura, cioè il bollo dell'autovettura, no? Come falsificarlo, c'è la possibilità di farlo alla posta e la posta vi fa questo bollo qua. Allora si prende un cerchiometro, nel cerchiometro si prende il cerchio da 29, cioè da 29 mm, 2 cm,9, no? Si guarda innanzitutto un altro bollo, si guarda un altro bollo e una volta preso questo cerchio da 29 ci si fa la scritta tutto attorno. È chiaro che qui occorre un pochino di mano, ma mi sembra che specialmente tra i giovani oggi... Sì, sì, a mano, ma è una cosa facilissima da fare, molto più facile di quello che si creda. C'è un sacco di gente che mi sembra è andata, cioè che ha fatto le belle arti, che è disegnatore tecnico, che so, parecchia gente che ha fatto 2 o 3 anni di disegno, no? Se ci si mette una volta o due è facilissimo farlo. Allora dicevo, prende questo cerchiometro col cerchio da 29. Cos'è cerchiometro? Un cerchiometro è un affare rettangolare dove ci sono tutti i cerchi, no? Che partono da 1 millimetro a 35 mm più o meno. Ecco. Anche un compasso o un bicchiere. No, ma vedi, è molto più facile farlo con un cerchiometro perché bisogna usare della china nera. Questa era appunto la giornata sull'arte da arrangiarsi, e se magari adesso possiamo vedere qualcosa su sulla svendita del 68, che è l'ultima giornata, diciamo, di questo 3 giorni di incontri. Dunque, abbiamo saputo di uno scandalo del convegno, uno scandalo della vendita del 68. Ci è stato riferito questa cosa senza fare delle copie da distribuire a tutti nella sua appunto... ...democraticità di Zingaro. E poi chissà... Riprendi. Vai, riprendi. Vai. Non stai riprendendo? Sì. Ma dovresti fare, sai che cosa? Il... Ci dovrebbe essere una parata che vada a no, per la contestazione. È stato detto di fare una contestazione. Ma io ero fuori e è arrivato un gruppetto di 50 persone, ma tutte allegre, che urlavano una roba in cui c'era dentro anche Macondo, ma non ho capito un cazzo di quello. Poi dicevano prendiamoci la città, eccetera. Allegri. Ma non, sì, non sembrava. Che pensi di questo convegno? Ma sei matto? Io o tu? Chi è quello lì che mi sta riprendendo? Quello lì con quella macchina? Mi sembra Ambrogio. È Ambrogio in realtà. È Ambrogio? È l'uomo con la macchina da presa. È uno con la salunga? Eh sì. Ambrogio, cosa ne pensi di questo convegno? E tu che cosa ne pensi di questo convegno? Ma in questo momento non sto proprio pensando, quindi... Ah, riesci addirittura a fare questo? Sì, più o meno. Beh, è un grosso stimolo. Che storia incredibile. Ho trovato gente... La cosa bella è che tu sei stato qua per far venire fuori delle storie. Cazzo, come ci siamo divertiti ieri sera quando abbiamo messo il microfono allo straccio. È stata stupenda, perché abbiamo preso un microfono. Sì, abbiamo messo un microfono allo straccio libero, che era entrato direttamente nel mixer. Poi abbiamo occupato la sala musica e abbiamo diffuso un comunicato in cui il comitato per l'occupazione di Macondo era riuscito a impossessarsi della sala musica. E poi dopo c'era tutta questa gente lì col microfono, che succedevano delle storie, delle cose strane. Sì. E la cosa più divertente è stata quando abbiamo... Ci sono tutti i vaffanculo. Ah, non lo so. Infatti. Ma c'è un locale, vabbè. Un casino. No, ma poi è successa una cosa molto buffa, che abbiamo, fra gli altri comunicati che abbiamo diffuso, abbiamo convocato tutto il servizio d'ordine dell'MLS davanti alle chiuse di Leonardo da Vinci. Da dentro si è sentito un boato di fischi da tutto Macondo, incredibile. È stata l'unica volta infatti che c'è stato quel boato, perché anche quando sono stati convocati gli altri servizi d'ordine non, sì, non succedeva niente. Quando è stato detto MLS, lì sì, è scoppiato il casino. Siete stati deliziosi, perché potevate andare anche sul pesante, per esempio dire troviamoci tutti sotto lo striscione, uniti vinceremo. Io no. Propongo una cosa, cioè quello che manca in questo convegno è una lotteria. Una lotteria? Col televisore a colori come premio? C'è una lotteria a tifo, cioè si fa così. Ah, stupendo. Chi tiene per i Vietcong rossi gli dai delle palline rosse, e chi tiene per i Khmer rossi gli dai delle palline rosse, tutte numerate. Poi dopo si estrae un... Tu per esempio per chi fai tifo? Per i Khmer rossi o per i Vietcong rossi? Ma lo sai che non so più che cos'è? Sono due nomi di droga, tu lo sai benissimo. Ci siamo drogati tutti con quelle robe lì. Vietcong vince perché spara. Non puoi abusare di me, Fiorellino. Tony, ce la fai tu, un momento di maggiore salvezza. Lo sento? Siete... No, ma non che non l'ha fatta, cioè. Voglio dire, anche da filmare, è bello, tutti lì. Dai. Si sta... Facciamo denaro. Allora, Antonella Di Prato all'uscita generale. Antonella Di Prato all'uscita generale. No, ma non ha funzionato, forse non lo so. No, non era, una grande, era una grande occasione, questo microfono che girava per quel salone là. C'era, c'era un mobile, uno era mobile e l'altro era qua. Io non sono entrato, magari perché vengo magari guardato male, a torto. Eh sì, nell'ottica ci sono. Magari qualcuno che ha preso le 25 o le 30 mila lire. Prima è partita una 600, erano 600, li ho seguiti in carico. Lì cresciamo. È sceso, buonanotte. E questa è la questione. Moretta è nel centro. Non è bloccato, non si chitarra. Faccio accendere anche la mia del computer. Certo. Al convegno di Bologna avevamo i percorsi preferenziali garantiti, cioè c'erano 10 macchine del servizio che andavamo sulle linee. Sì, ma per 3 giorni. Abbiamo cominciato con. Mi hanno insegnato che quando c'è disordine, per ristabilire l'ordine non bisogna procurarne dell'altro. Ecco, quello sì si poteva fare, evitare la sosta lì mettendo due cavalletti in modo che ci fosse più. Si è bloccato. Qui dovevano fare un angolo di un'oasi. Perché?